Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo di alcune novità arrivate proprio un'ora e mezza fa dalla Commissione Bilancio della Camera, che a questo punto ha giudicato ammissibile la Banca del Sud, ma con alcuni paletti. Ieri infatti in finanziaria erano stati giudicati inammissibili alcuni emendamenti sulla Banca del Sud, adesso sono stati resi ammissibili ma con alcuni paletti. Confermate invece inammissibili alcune misure per gli enti locali, per esempio il taglio al numero dei consiglieri comunali e provinciali, e questa forse non è una bella notizia, ma anche inammissibili quelle norme che portavano a un tetto agli stipendi dei consiglieri regionali. Lo ha deciso la Presidenza della Commissione Bilancio della Camera. E stop anche alle proposte che riguardano la privatizzazione di Tirrenia. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa, sembrava cosa ormai fatta, questione di giorni, invece no, tutto sospeso, e anche per alcune zone franche urbane. Peccato, dicevo, che le misure del codice delle autonomie che prevedevano il taglio del numero dei consiglieri comunali e provinciali e il tetto di stipendi di quelli regionali siano state rese inammissibili, visto che spesso si parla anche dei costi della pubblica amministrazione e delle amministrazioni anche locali. Parleremo comunque in apertura dei dati sul commercio mondiale, oggi un rapporto molto importante che fotografa un miglioramento, ma a fronte di un calo che è stato brusco, molto brusco, e che ancora si paga, viene confermata come area di interesse il sud-est asiatico nella parte dell'Asia emergente, come si chiama in gergo, e anche per quello che riguarda il Sud America. In questo senso il calo del commercio italiano, dell'export italiano, è intorno al 25%. E poi, come sempre, i mercati finanziari. Oggi, per fortuna, diciamo, non ci sono grossi movimenti sui mercati. Parigi guadagna lo 0,4, Londra mezzo punto percentuale, Francoforte è invariata anche Milano in questo momento, l'America è invariata anch'essa. Pochi gli spunti quindi, e tra i titoli segnaliamo il migliore: Mondadori più 2,4, Snam più 2%, Luxottica più 1,90, Prismian più 1,6 come Campari, Italcementi più 1,3 come UbiBanca, e Finmeccanica, Tenaris più 1,2 e Buzzi Unicem più 1%. Fiat, dopo il buon progresso di ieri, oggi cede lo 0,3%. Il dato di ieri sulle immatricolazioni auto era molto buono, non così buono, perlomeno stazionario, quello su Fiat, perché non vi era stato un incremento della quota Fiat sulla quota totale di immatricolazioni. Il peggior titolo però è in pregilo, anzi l'automatica in questo momento perde il 2%, poi in pregilo l'1,8, Geox e la Popolare di Milano perdono 1,7, Monte dei Paschi 1,5% di calo. Parleremo anche di Telecom Italia, oggi infatti consiglio di amministrazione, e poi di turismo, perché si è tenuta l'assemblea annuale della STOI, che è l'associazione che raggruppa i tour operator a livello italiano, e siamo in un periodo in cui tra Sant'Ambrogio e poi Natale si vedrà che cosa e se ci potrà essere una ripresa nel settore del turismo. Inutile dirlo, uno di quelli che hanno pagato, non pagato più di altri, però va detto, stando ai dati diffusi dopo le vacanze estive. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le notizie in breve. Il petrolio scende a $77 al barile dopo il rialzo, dopo un dato che ha visto in rialzo le scorte americane di petrolio. L'oro invece continua a macinare record, $1,215 l'oncia, incredibile. E l'euro, tra l'altro, è nel confronto del dollaro è 1,55 nei confronti del dollaro. Ancora, per quello che riguarda i posti di lavoro in America, secondo il sondaggio effettuato da ADP, praticamente C'è stata a novembre la minor perdita di posti di lavoro dal luglio 2008, quindi una buona notizia. Sono stati persi infatti 170.000 posti di lavoro, è il dato più basso, ripeto, come perdita di posti di lavoro dal luglio del 2008, però è peggiore delle attese. Le attese puntavano a 170.000 posti. La Grecia: nessuna banca che ha obbligazioni greche ha motivo di essere preoccupata. Lo ha detto il ministro delle finanze greco, che George Papa Constantinou, rispondendo a chi gli chiedeva conferma di alcune voci su un presunto incontro proprio sulla affidabilità delle obbligazioni greche, avvenuto ieri con il ministro dell'economia italiano Giulio Tremonti, questo a margine dei lavori dell'Eurogruppo. E ancora, per quello che riguarda l'economia italiana, il ministro dell'economia Tremonti ha tenuto la sua presenza e la relazione alla Camera proprio per in qualche modo correggere quella che era stata ieri lo stop, l'inammissibilità agli emendamenti. Vi abbiamo però appena letto in diretta quello che è successo, quindi è stato reintrodotto l'emendamento sul Banca del Sud con alcuni paletti. Per la Banca del Sud invece sono stati confermati inammissibili tutti gli altri emendamenti. Sulla Banca del Sud il problema, lo dico a livello anche di diritto, è la difficoltà di far nascere una Banca del Sud per decreto, e è una procedura che andrebbe contro le regole esistenti. E tra l'altro ieri era stato bocciato il comma che prevedeva di affidare al Tesoro il compito di emanare tutte le disposizioni attuative, di fatto relegando in un angolo la Banca d'Italia. Avete ragione, il fatto che non sia passato, lo dico a chi scrive al 349-238-6666, il fatto che non sia passato l'emendamento che prevedeva di ridurre il numero dei consiglieri comunali e provinciali e anche il tetto agli stipendi di quelli regionali, più che i costi della pubblica amministrazione, andrebbe rubricato sotto la voce costi della politica. Avete ragione e mi correggo. La convocazione dei sindacati, ha detto il ministro Brunetta oggi, ci sarà la prossima settimana. Il ministro ha precisato che la convocazione interesserà tutti i sindacati che hanno firmato il nuovo modello contrattuale, quello che prevede due livelli sul contratto, quello nazionale e quello invece a livello di secondo livello, a livello aziendale, tranne quindi la CGIL, che non verrà convocata. E ha parlato a questo proposito il segretario della CGIL, Guglielmo Epifani, di un gravissimo autogol del ministro. Sempre sui temi di casa nostra, la presidente Confindustria Marcegaglia oggi ha chiesto che, per affrontare anche una situazione che resta economicamente difficile nel paese, la politica recuperi il senso della misura. Penso veramente che la politica italiana abbia bisogno di recuperare senso della misura. Senza quello, veramente il rischio che la politica si allontani dalla vicinanza e dalla percezione che i cittadini hanno della politica, e io credo che se questo non si farà, il rischio è che la politica si consumi nel dissidio civile e nella reciproca delegittimazione e in qualche modo evidenzi la sua impotenza. Così la presidente di Confindustria, intervenuta a Montecitorio per i 10 anni dalla morte di Nilde Iotti. C'è stata infatti una commemorazione oggi a Montecitorio, e Emma Segaglia ha anche parlato di riforma del welfare e del fisco, che devono essere meno penalizzanti per le donne che lavorano, per le famiglie e per il capitale umano. Noi abbiamo ancora oggi il tasso di occupazione femminile che è tra in assoluto i più bassi d'Europa, il tasso di disoccupazione femminile, a maggior ragione in un momento di crisi come questo, che è tra i peggiori d'Europa ed è nettamente superiore rispetto a quello maschile. C'è una sorta di straordinario giacimento di intelligenza, di valori, di capacità che in Italia non è valorizzato, e se noi riuscissimo seriamente, concretamente a valorizzarlo, il nostro paese potrebbe certamente avere tassi di crescita migliori, maggiore benessere, e questo io credo sia un elemento sul quale tutti noi dobbiamo lavorare seriamente al di là delle dichiarazioni, perché moltissimo resta da fare. Quindi credo che su questo, sul tema della parità della retribuzione, tutti noi ci dobbiamo impegnare, e per impegnarci ci sono delle cose concrete che bisogna fare. Bisogna fare riforme del welfare e del fisco che siano meno penalizzanti per la famiglia, per le donne, per la natalità e per la formazione del capitale umano. Si può fare, credo che tutti noi lo dobbiamo fare, perché al di là, ripeto, di un tema fondamentale di emancipazione femminile, c'è un tema di sviluppo e di benessere che noi non riusciamo a percorrere proprio perché non valorizziamo questo straordinario giacimento che è l'occupazione femminile. Allora, passiamo al primo tema di questa puntata, il commercio mondiale 2009, un rapporto importante, oggi diffuso in Italia dall'ISAE, che va a fotografare come si stanno muovendo gli scambi mondiali dopo la gelata, la ghiacciata arrivata tra fine 2008 e inizio 2009. Già l'Organizzazione Mondiale del Commercio ha rivisto al ribasso per la seconda volta da marzo le previsioni su come andranno gli scambi commerciali nel 2009, un meno 10% nel 2009 di media, che riporterebbe il commercio mondiale, gli scambi commerciali, ai livelli del 2005. Noi usiamo spesso un altro indice, che è l'indice di quanto costa noleggiare un cargo sulle principali rotte commerciali al mondo, tranne che per il trasporto di petrolio, che è un'altra storia. L'indice si chiama il Baltic Dry Index, e allora era sceso, dopo stava stabilmente a 11.000 punti a inizio 2008, era crollato a 600 punti a dicembre 2008, a giugno era tornato a 4.000 punti, a ottobre era sceso a 2.600 punti, adesso a novembre siamo a 3.000 punti e dal 1 dicembre è tornato a 4.000 punti, che vuol dire che siamo a un terzo rispetto al 2008 come costo e come valore del commercio mondiale, ma comunque siamo ampiamente sopra i livelli dei minimi toccati a dicembre. Lo dico a chi ci scrive, l'indice fotografa quanto costa noleggiare un cargo. È chiaro che meno costa vuol dire che meno richiesta, domanda c'è, più costa il prezzo del nolo di un cargo per trasportare merci, più il commercio mondiale ha ripreso a correre. E allora, il rapporto World Trade Growth 2009-2010, quindi la crescita del commercio mondiale, realizzato oggi anche dall'ISAE, siamo in collegamento con il presidente dell'ISAE, Alberto Maiocchi, buonasera. Buonasera, dottor Barisoni. Dunque, vediamo di partire dal commercio complessivamente dato e poi di arrivare all'Italia. La flessione più forte, ormai lo sappiamo, si è registrata fine 2008 e inizio 2009. A luglio c'è stato un rimbalzo, ad agosto un nuovo calo, insomma sì, c'è una fase di assestamento. Però, se ho ben capito, nel vostro rapporto voi dite che dopo un meno 13% nel 2009, l'anno prossimo ci potrebbe essere una crescita. Sì, l'ipotesi che noi facciamo è che la contrazione del 2009 è stata la peggiore dopo la Seconda Guerra Mondiale. L'ultimo trimestre del 2009 di quest'anno dovrebbe già segnare un miglioramento, e sulla base di alcune assunzioni che vanno poi verificate si prevede una crescita del commercio mondiale del 7,5% nel 2010. Questa crescita è legata a una ripresa dell'economia mondiale che è dovuta sostanzialmente all'inversione del ciclo delle scorte e effetti delle misure di stimolo fiscale che sono state prese in diverse parti del mondo, in Cina, negli Stati Uniti. Però ci sono alcuni punti interrogativi che riguardano questa assunzione. E quali sono? Questi punti interrogativi sono che questa ripresa della domanda mondiale è sottoposta a diverse condizioni. Primo, può finire la politica fiscale espansiva e quindi si tratta di vedere se la domanda interna nei paesi avanzati è in grado di mantenere un ritmo di crescita sostenuto anche in presenza di una politica fiscale meno espansiva. Il secondo interrogativo riguarda il deterioramento delle condizioni sul mercato del lavoro, cioè la perdita dei posti di lavoro che possono incidere sulla domanda. Il terzo elemento è l'eccesso di capacità produttiva che esiste nei paesi avanzati, se non può rappresentare un fattore di freno alla crescita degli investimenti. Allora, chiariamo anche a chi scrive al 349-238-6666. Il nostro fatto 100 il nostro PIL, il 30% è domanda estera, cioè esportazioni. Il resto è domanda interna, adesso la mettiamo in maniera un po' approssimativa. Quindi il commercio mondiale e la nostra possibilità di esportare pesano sull'economia italiana per un terzo. Chiaro che non ci sarà nessuna ripresa vera e propria se non partiranno anche i consumi interni, la domanda interna, però sappiamo che moltissime imprese, manifatturiere soprattutto, e particolarmente toccate dalla crisi, penso al settore metalmeccanico, siderurgico, calzaturiero, mobilio arredo e quant'altro, vedono spesso, riescono o riuscivano a esportare il 60, il 70, il 50% del loro fatturato. Ecco perché il tema è delicatissimo. Lei diceva, vabbè, tutto questo se non vi sarà un giro di vite sui tassi di interesse, sulle politiche, diciamo, espansive. Dov'è che sta ripartendo di più il commercio, Presidente Magnocchi? L'elemento forte della ripresa è l'economia cinese e vi sono altre aree industrialmente emergenti, anche qui il panorama è molto variegato. Alcune aree industrialmente emergenti come il Brasile presentano forti tassi di crescita, ma nel panorama latinoamericano, per esempio, l'economia messicana, che è più legata all'economia americana, presenta elementi di maggiore debolezza. Noi siamo particolarmente legati al comportamento di paesi fortemente esportatori come la Germania e il Giappone, che hanno avuto una forte caduta nel 2009 del loro commercio esterno e si prevede che si riprendano in misura significativa nel 2010. Per i nostri settori di esportazione l'economia italiana ha diversificato i propri mercati di sbocco, in particolare nell'Europa orientale. Questo ha inciso molto negativamente nel 2009 perché in questi paesi c'è stata una caduta del PIL più o meno del 15%. Se ci sarà una ripresa, questo favorirà anche le esportazioni italiane. Ecco, va detto che una buona notizia in questo, diciamo, 2009, che si sta sicuramente concludendo meglio di come non si è iniziato, però non è che proprio si concluda così bene, una buona notizia dovuta ai risparmi per le economie che sono fortemente importatrici, dovuti al calo del prezzo delle materie prime, in petrolio ma non solo, intorno ai 400 miliardi di euro nel 2009 rispetto al 2008 come risparmio complessivo. Allora, lei diceva, il problema vero nostro è quanto agganceremo una ripresa tedesca e giapponese, e andiamo allora all'Europa, perché per il 2009 voi avete stimato un calo degli scambi commerciali di quasi il 16%, una bella botta, 15%. Nel 2010 più 5%. Domanda, questo tasso è secondo voi il tasso con cui continuerà a crescere il commercio mondiale? Cioè ci vorranno 3 anni per tornare ai livelli del 2008? Certamente, sì, è chiaro che la ripresa è lenta e quindi anche la capacità, la crescita del commercio mondiale ritornerà sui livelli precedenti. Io credo che l'elemento decisivo, ragionando dal punto di vista dell'economia italiana nel quadro dell'economia europea, è appunto di, prendiamo un settore particolarmente rilevante per l'economia italiana, la meccanica strumentale, le esportazioni beni investimento. Questo settore è un settore che esporta e ha prospettive di crescita delle esportazioni sia nei paesi industrialmente emergenti che devono ampliare la propria capacità produttiva, sia nei paesi avanzati per investimenti di sostituzione di impianti già esistenti. Ora, questo è legato alla capacità dei settori italiani dove si concentra maggiormente l'esportazione di rinnovamenti tecnologici importanti e questo richiede probabilmente una ripresa da parte del settore pubblico, un sostegno, e da parte del settore privato una spesa rilevante per investimenti in ricerca e sviluppo. Questo è un po' l'elemento che mi sembra sia diventato abbastanza discriminante, sì, per mantenere il nostro peso nel mercato mondiale. Allora, Presidente Magliocchi, io però vorrei capire una cosa. Perché il commercio mondiale cala del 13% nel 2009 e l'anno prossimo fa un più 7,5%, per cui ci mette con questi tassi 2 anni a recuperare tutto. Il commercio europeo invece cala del 16% e l'anno prossimo è previsto che aumenti del 5%, quindi ci vorranno almeno 3 anni, un po' di più. Se poi dall'Europa ci si sposta all'Italia è ancora peggio, cioè noi abbiamo avuto le esportazioni meno 21% nel 2009, cioè una merce, un servizio ogni 5 non si è esportato, una cifra drammatica, e nel prossimo anno faremo più 1,5. Con questi tassi ci mettiamo 15 anni a recuperare le... Allora, come mai il mondo ha avuto una botta ma in 2 anni recupera? L'Europa ha avuto una botta più forte ma in 3 anni recupera, l'Italia ha avuto una botta ancora più forte e ci mette 15 anni a recuperare? Beh, se andiamo a vedere, non so, oggi è uscito anche il rapporto della SACE sull'andamento del commercio estero italiano, no? E se noi andiamo a vedere cos'è successo, cercando di vedere i diversi settori, cioè beni investimento, beni intermedi, beni consumo e beni alimentari, Il settore dove si è avuto una maggiore caduta della esportazione, del valore delle esportazioni italiane, è il settore dei beni intermedi, ma anche il settore dei beni investimento ha avuto una notevolissima flessione. Ora, in questi settori io credo che c'è un problema di produttività, c'è un problema di aumento della produttività. Nel periodo 2000-2005 l'industria italiana ha fatto una forte ristrutturazione che si è tradotto in una riconquista di mercati esterni e in un aumento della produttività e un aumento della produzione industriale. Il problema è di vedere come si comporta l'industria italiana nel corso della recessione, cioè se c'è un fenomeno di, per usare la terminologia schumpeteriana, di distruzione creativa, no? Cioè escono le imprese più deboli durante la recessione, ma le imprese sane si rafforzano perché rinnovano gli impianti, adottano nuove tecnologie. Questa è la sfida delle imprese italiane. Mi scusi, ma non sarà che, a parte che vedo alcuni messaggi al 349-238-6666 che dicono, un ascoltatore dice, sono appena tornato dalla Cina, vi posso dire che le aziende italiane che hanno sedi produttive in Cina e in Asia stanno lavorando moltissimo, e questo non stentiamo a crederlo, certo. Però non sarà che noi siamo anche un po' sfortunati, nel senso che essendo molto forti in alcuni prodotti, ma soprattutto, come ricordava lei, nei beni intermedi, cioè nelle macchine che servono a produrre alcuni beni, perché lì ci siamo collocati in una fascia di export che sta soffrendo più di altre, più dei prodotti da largo consumo per esempio, più di altre fasce, e una fascia in cui i paesi Cina e India si riproducono da solo queste macchine. Ecco, appunto, il problema è, da un lato la caduta è più forte in questi settori perché risente maggiormente dalla caduta della domanda interna nei mercati di sbocco delle esportazioni italiane. D'altro lato è vero quello che lei dice, cioè se vogliamo mantenere le nostre posizioni in questi mercati di sbocco c'è un problema di fare migliorare tecnologicamente la nostra produzione, cioè c'è un problema di diversificazione dei prodotti, come si è fatto nel periodo 2000-2005, all'interno delle aziende si scelgono i prodotti che hanno più capacità di essere esportati, l'upgrading qualitativo della produzione italiana, in molti settori che sembravano destinati a essere scomparsi, i settori tradizionali, noi abbiamo conquistato posizione attraverso un upgrading qualitativo, insomma. E lo stesso dovremo fare nei settori dei beni intermedi, la meccanica strumentale è uno dei settori più forti dell'economia italiana, ma bisogna investire, bisogna rinnovarsi, altrimenti anche nei mercati di sbocco i produttori locali ci tolgono mercato. Allora, e qui veniamo all'ultimo aspetto, che cosa può fare il governo e la politica? Perché voi come ISAE siete un istituto di emanazione governativa e io vorrei capire, insomma, la soluzione qui cosa deve essere? Se occorre che i nostri imprenditori riposizionino i loro prodotti, soprattutto quando fanno beni intermedi, quindi macchine che servono per produrre prodotti, non il prodotto finito, e devono investire. Allora, i soldi non ce ne sono tanti in giro perché i fatturati qua sono meno 25, meno 30, meno 40%. Le banche, non voglio riaprire il tema, ma non è che siano proprio così in questo momento di manica larga, usiamo un eufemismo. Potrebbe essere pensabile un'iniziativa fiscale, cioè se io reinvesto i soldi in miglioramento, in ricerca e sviluppo, in miglioramento del prodotto, ho un vantaggio fiscale forte? Senta, io le faccio queste due osservazioni. Sì. La prima è che purtroppo l'Italia, lo sappiamo, è il dibattito in corso anche all'interno del governo. Non mi dica del debito. Ecco, no, cioè il fatto il freno che in Italia c'è per le dimensioni del disavanzo pubblico. La seconda osservazione che vorrei fare, ricordare che in Francia si sta discutendo, c'è la commissione Rocard-Juppé per emettere un grande prestito nazionale per lo sviluppo. Le conclusioni di questa commissione che è stata insediata da Sarkozy prevedono che ci sia un aumento della spesa per ricerca e sviluppo e istruzione superiore pari all'1% del PIL. Cioè, queste sono le dimensioni del problema. Cioè, se vogliamo affrontare la sfida competitiva, le dimensioni del problema sono queste. L'osservazione che io faccio, e credo che per esempio parecchie volte l'ha fatto il ministro Tremonti, è che questa dovrebbe essere la politica non di un paese, non dell'Italia, ma dell'Europa. Cioè, sì, l'Europa però può indebitarsi. Sì, ha ragione, Maiocchi, io posso anche capire, ma se nel frattempo l'Europa continua ad andare avanti da sola, cioè la Merkel fa in Germania i suoi stanziamenti, in Francia hanno appena fatto un piano da miliardi e miliardi per finanziare università, imprese, cioè è inutile continuare ad aspettare l'Europa, forse dobbiamo agire da soli anche noi, o no? Sì, certamente. L'unico problema è che bisogna vedere come reagiscono i mercati. Se noi facciamo un'operazione come quella francese, si tratta di vedere come reagiscono i mercati, e io credo che il primo indicatore che un ministro dell'economia in Italia va a vedere ogni mattina aprendo il vostro giornale è lo spread rispetto al Bund tedesco. No, ma io sono si figuri se qualcuno vuole minare la tenuta dei conti pubblici, la politica del rigore è importantissima, però non so, adesso non vorrei riaprire la polemica Brunetta-Tremonti, ma è anche difficile dire, vabbè, siccome abbiamo un debito così alto non si può fare nessuna politica industriale, a questo punto decidiamo che non c'è nessuna politica industriale da fare, che non si possono fare agevolazioni e sgravi, che non si possono trovare risorse in altre forme, con qualche spreco in meno, un po' di lotta all'evasione in più, cioè mi sembra anche un po' limitato dire c'è il debito, c'è il deficit, non ci si può muovere. Io credo che ci sia un problema di priorità, c'è un problema di priorità, ci sono molte cose che sono utili ma che in questo momento si possono dilazionare, cioè le scelte che si sono fatte, per esempio su, prendiamo i grandi progetti infrastrutturali, no? Sono progetti certamente importanti per lo sviluppo del paese a lungo termine, però probabilmente nell'immediato ci sono cose da fare che sono più utili. Io credo che le due priorità della politica italiana debbano essere, da un lato, il sostegno dei redditi più bassi attraverso misure fiscali anche per garantire un mantenimento dei livelli della domanda di beni di consumo, e dall'altro lato una politica per favorire gli investimenti delle imprese destinati soprattutto al miglioramento qualitativo, cioè se le imprese investono per ricerca e sviluppo, per miglioramento della struttura, della capacità produttiva, ci dovrebbe essere sgravi fiscali. È chiaro che a questo si accompagna però necessariamente la capacità di imporre riduzioni di spese in altri settori. Per forza, la coperta corta è. Grazie comunque al presidente dell'ISAE, Alberto Maiocchi. Grazie, dottor Barisoni. :17:42 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Vedo già molti messaggi sul tema dei manager. Nessuno vuole condannare nessuno, però ne parleremo venerdì. Ma così come abbiamo parlato dei dipendenti pubblici poco produttivi, secondo il ministro Brunetta Fannulloni, delle necessità che gli imprenditori rinnovino, delle partite IVA, del controllo e della lotta all'evasione su alcune categorie, si può parlare anche dei manager, secondo noi sì, anche perché non sempre rispondono in maniera così stringente di quello che hanno combinato, in senso positivo sì, con i bonus, in senso negativo meno, e rischiano molto meno di chi fa partita IVA o chi gestisce un'impresa. Comunque abbiate pazienza, ne vedremo delle belle. Adesso invece parliamo di borsa. Chiusura invariata, piatta la giornata oggi, sia a Milano che a Francoforte, che a Londra più 0,2, Parigi mezzo punto percentuale, l'America è invariata anch'essa, pochi gli spunti quindi. E allora subito con Radio Cori, Sole 24 Ore, Guido Maurino, buonasera. Buonasera. Allora, Fiat alla fine che cosa ha combinato? Perché ieri ha chiuso con un meno 0,3%, un po' di delusione forse per le quote Fiat non troppo brillanti rispetto a un mercato che ha fatto un più 30%, deboli oggi bancari, Popolare Milano meno 1,90, Monte dei Paschi meno 1,5, Banco Popolare meno 0,90, Unicredito meno 0,7%, Intesa invece è invariata. Peggior titolo in pregiro meno 2,2 assieme all'Ottomatica, in pregiro l'Ottomatica. Allora, diciamo subito che soprattutto per Impregilo si tratta in gran parte di prese di beneficio. Dobbiamo ricordare infatti che ieri le borse erano andate molto bene, oggi hanno fallito la conferma del rimbalzo, diciamo così, e Impregilo fra i titoli che erano andati bene ieri era uno di quelli che erano andati meglio, facendo segnare un rialzo di oltre il 5%. Altri settori delle costruzioni invece si sono comunque comportati bene oggi, hanno chiuso positivi, mi riferisco in particolare a Italcementi Cementi e a Buzzi Unicem, in particolare Buzzi Unicem oggi ha anche chiuso un bond da 350 milioni. Eh sì, quindi il mercato della raccolta di capitali continua ad essere un mercato che va molto bene per chiunque vi si affaccia. Andiamo avanti sulla vicenda CIR Mondadori, mi sembra che le CIR oggi abbiano perso lo 0,6%, ieri le CIR, cioè Carlo De Benedetti, avevano guadagnato un punto percentuale in più rispetto alle Mondadori, a significare che il mercato vedeva la sospensione del risarcimento, però con l'obbligo di fiduzione come una notizia forse un po' più positiva per De Benedetti che non per Fininvest e Berlusconi. Mondadori invece oggi ha guadagnato molto ed è il miglior titolo, più 3% a 2,99€. Sì, oggi diciamo che le parti si sono un po' invertite, con CIR che ha chiuso in calo, mentre Mondadori è stato il miglior titolo col più 2,92%, ma sono andate bene anche altri titoli, diciamo così, della galassia, perché ad esempio Mediolanum ha guadagnato lo 0,50% e anche Mediaset ha chiuso con più 0,19%. Ancora tra i titoli, oltre appunto Mondadori e CIR, Tiscali, allora qui andiamo tra i migliori e peggiori in assoluto, più 7%, che è successo a Tiscali? Ma non ci sono notizie particolari, è stato un andamento un po' anomalo, soprattutto con un rialzo che è diventato più marcato nel finale. Bisogna comunque segnalare che nei giorni scorsi la società che deve fare le comunicazioni mensili Consob ha fornito un aggiornamento sulla situazione patrimoniale del gruppo e quindi anche sull'indebitamento. L'indebitamento netto è sceso a 264,2 milioni rispetto ai 419,3 milioni del mese precedente e soprattutto questo miglioramento molto netto è dovuto alla contabilizzazione dei 131 milioni incassati con l'aumento di capitale. La notizia è stata diffusa due giorni fa, il titolo aveva già guadagnato nelle ultime sedute, oggi ha messo a segno un progresso molto marcato. Dopo le informazioni sul traffico, altri titoli, peggiore Sopaf meno 5,90, Benetton male meno 4,80%, Safilo di nuovo perde meno 4,4%. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Guido Marino, si diceva di altri titoli oggi sul listino, i migliori e i peggiori li abbiamo praticamente dati. Ratti è migliore con un 19%, CHL più 7,8%. Qualche novità su CHL? Ma sì, su CHL c'è una novità, perché la società ha annunciato oggi un accordo con Open Sky per la banda larga via satellite, e questo accordo appunto è la ragione per cui oggi il titolo ha guadagnato così tanto. E poi c'era molta attesa sul mercato anche per Telecom. Prima chiudo con i titoli migliori tra quelli a maggiore capitalizzazione: Snam più 2,6, Luxottica più 2%, Campari più 1,80, Prismian più 1,7, UbiBanca più 1,3%, Italcementi più 1,3% anch'essa, Finmeccanica 1,2% di rialzo, come Tenaris, lo 0,80% lo guadagna Pirelli e anche Terna. Chi perde di più, oltre a Impregilo l'Automatica, anche Geox meno 2,2%, le banche l'abbiamo già detto, Exor meno 1,3%, Fondiaria meno 1%, e poi Parmalat meno 0,5%, lo 0,5% lo perde anche Telecom Italia. Allora, nel ringraziare Guido Maurino e Radio Colle sulle 24 ore, ci occupiamo adesso proprio del Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia. È Sì, erano presenti tutti oggi a Milano per il consiglio di amministrazione molto atteso. Addirittura c'era chi diceva che si sarebbe arrivati a parlare dei nuovi vertici di Telecom Italia, presente anche Cesare Alierta e Julio Linares in rappresentanza del primo, di quello che è il primo azionista dentro la società che controlla Telecom, che si chiama Telco. Il primo azionista è la spagnola Telefonica, che ha appunto il 40%, Telco ha il 24% di Telecom Italia. E sul tavolo, tra le altre cose, si ipotizzava anche il dossier Argentina, ossia l'antitrust di Buenos Aires ha chiesto che venga venduta TIM Argentina, la controllata di Telecom sulla telefonia mobile, proprio perché Telefonica spagnola è azionista di Telecom ed è già il primo operatore in Argentina, quindi ci sarebbe una posizione dominante. Antonella Olivieri, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Antonella, che cosa è emerso? Perché mi sembra di aver capito che sono rimasti riuniti 6 ore, quindi... Sì, perché c'è stata una presentazione molto lunga da parte del management sugli scenari di business di lunghissimo periodo, sull'evoluzione delle tecnologie, della rete, del mercato, e quindi questo ha portato via molto tempo. E l'argomento Telecom Argentina è stato appena sfiorato alla fine della riunione. Diciamo che era quello che si attendeva, in quanto questo consiglio di amministrazione era di tipo informativo, non doveva essere presa alcuna decisione. Chiaramente il discorso di Telecom Argentina era di attualità, anche perché l'advisor, cioè il Credit Suisse, aveva fatto un secondo giro di ricognizione per valutare le offerte per l'eventuale dismissione della quota detenuta nel gruppo telefonico argentino, ed erano arrivate appunto 5 offerte, ma non si è entrato molto nel merito, anche perché c'è anche in piedi un contenzioso, perché la Tele, come Telco anche credo, si sono opposte per via legale alla decisione dell'antitrust argentina di intimare la vendita di tutti gli interessi economici del gruppo Telecom in Argentina. Quindi prima di prendere una decisione definitiva, forse è anche il caso di capire che possibilità ci sono di avere un ribaltamento della situazione per via legale. Eh sì, attraverso una sentenza. Però al di là di questo, e se ho ben capito, poi il prossimo consiglio di amministrazione sul bilancio 2009, che dovrà valutare il bilancio e approvare il bilancio 2009, si riunirà il 25 febbraio. Possiamo dire, Antonella, che c'è stato molto rumore giornalistico per nulla? Dipende di quali giornali parliamo. No, però, no, diciamo, ma dico in generale. Non c'è stato rumore per nulla. Cioè, giorni che si diceva il CDA Telecom, poi hanno fatto 6 ore a guardare diverse slides e prospetti sui mercati e avere un piccolo accenno sull'Argentina nel finale. Grazie Antonella Olivieri, Radio Cor, Sole 24 Ore. Chiaramente è il quotidiano e non l'agenzia di stampa, l'abbiamo arruolata impropriamente nell'agenzia di stampa. Volete ancora notizia sui bond greci, sulle obbligazioni greche? Ripeto, oggi, dopo un incontro ieri nel vertice Eurogruppo, è arrivata una rassicurazione dal ministro del tesoro greco, che ha detto non c'è nessun problema di affidabilità delle obbligazioni emesse dal tesoro greco, nessuna banca che ha obbligazioni greche ha motivo di essere preoccupata. Questo a margine del lavoro dell'Eurogruppo, e lo ha confermato anche il vertice dell'Eurogruppo che si è tenuto ieri sera. Adesso c'è il nostro GR, poi parliamo di altre notizie che sono uscite, ma soprattutto di come stanno andando le attese sul turismo, ponte di Sant'Ambrogio, ma non solo, e c'è poi il Natale. Oggi infatti assemblea annuale dei tour operator italiani. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Allora, ci occuperemo adesso di turismo, meglio delle spese degli italiani a dicembre e a Natale, dopo il dato diffuso ieri della Confcommercio, in cui sostanzialmente si vedeva una spesa natalizia ferma, 1270 euro, praticamente al netto dell'inflazione un più 0,1%, con un aumento soprattutto dei risparmi sulle tredicesime, cioè 3 miliardi e 7, un 3% in più. Quindi consumatori italiani, ed era immaginabile, ancora molto molto attenti, non calo del consumo e della spesa, però nemmeno una ripresa, ci si colloca sui livelli del 2008. All'interno di questo oggi si è tenuto l'assemblea di Federturismo, di Astoi, cioè dei tour operator italiani. Astoi infatti raggruppa i 60 principali operatori turistici del paese e si è ragionato proprio di come stanno andando le prenotazioni, che cosa può fare il settore per venire incontro al cliente consumatore. Eh sì, perché le previsioni non sono bellissime per i tour operator: calo del fatturato del 10% e soprattutto l'assenza di un piano sul turismo è stata lamentata dal presidente di Federturismo Confindustria, John Winkler, che nel corso dell'assemblea di tour operator italiani ha detto: attenzione, qui occorrerebbe anche un piano nazionale per il turismo. Ascoltiamo al microfono della nostra Chiara Grandis. Che diventi materia di centrale dello sviluppo economico di questo paese e non venga gestita come un settore così a margine dell'attività produttiva italiana, perché il turismo è un'attività produttiva. Non considerarlo come un segmento a parte, ma come veramente parte integrante dello sviluppo economico del paese, quindi integrato con quelle che sono le politiche degli altri settori, che possono essere quelli dei trasporti, che possono essere quelli dello sport, della salute, dell'educazione, vale a dire sistema scolastico. Ecco, credo che questo sarebbe in sintesi il vero cambiamento di marcia. Poi questo si potrebbe declinare ovviamente in interventi molto più specifici, ovviamente a partire dalla fiscalità, che penalizza anche il nostro settore, così come penalizza tanti altri settori produttivi di questo paese. Sicuramente credo che non vi sia un problema di risorse in termini di quantità, in particolare anche per la promozione del paese. Credo che vi sia un problema di utilizzo di queste risorse. Credo che anche a livello istituzionale il settore turistico potrebbe beneficiare di una maggiore chiarezza di ruoli: chi si occupa di che cosa, chi coordina, chi garantisce una politica anche di promozione efficace. Così il presidente di Federturismo per un settore che, lo ricordo anche a chi scrive al 349-238-6666, vuol dire il 10% del nostro PIL, il turismo, 300.000 imprese, 2 milioni e mezzo di occupati legati alle attività che ruotano attorno al mondo del turismo, e è un dato che purtroppo tocca ricordare: noi eravamo leader mondiali nel 1970, oggi siamo scesi al quinto posto, rischiamo di scendere anche al sesto posto come destinazione più visitata. Il 2008 era stato un anno pesante: meno 6% gli stranieri, meno 1% le presenze alberghiere degli italiani, e l'estate del 2009 si era confermata come un'estate difficile: meno 7% le presenze totali, con l'unico dato positivo ad agosto, grazie agli italiani in vacanza, sostanzialmente un più 2%, ma il giro d'affari dell'estate si è ridotto di 3 miliardi di euro rispetto al 2008, è sceso infatti a 17 miliardi. E anche le presenze alberghiere continuano a calare: nel periodo gennaio-ottobre meno 4%, le previsioni su Natale sono ancora abbastanza incerte. Ecco perché ringrazio per averci raggiunto in collegamento il presidente della Stoic, dell'Associazione Tour Operator Italiani, Roberto Corbella, buonasera. Buonasera a tutti voi. Allora, poi andremo più nel profondo dopo le informazioni sul traffico. Vorrei capire, avete già una prima stima alla luce dei dati che vi arrivano su come si sta muovendo questo Natale, oppure si conferma una tendenza a prenotare all'ultimo minuto, a vedere esattamente quanti soldi resteranno, fatte le spese natalizie e quant'altro, e quindi un'attesa fino ai pochi giorni prima dell'inizio delle vacanze? Ma diciamo che di fatto siamo ormai agli ultimi giorni, sì, perché oggi è 2 dicembre, quindi se ci raffrontiamo ad anni trascorsi, le prenotazioni sono confermate ancora sotto data. Sicuramente ci sono prenotazioni più consistenti per le partenze di Capodanno, un po' più lente per quelle che è la partenza di Natale, dove ci sono ancora disponibilità. Questo ha contraddistinto tutto il 2009, quindi il fenomeno di una contrazione della durata della vacanza e di prenotazione sotto data, causa l'incertezza che il mondo ha per questa crisi economica che tutti stiamo vivendo, e quindi la preoccupazione di capire prima se uno si può permettere, che cosa si può permettere prima di decidere dove andare in vacanza. Però c'è anche qualche buona notizia, perlomeno per noi come clienti, perché i prezzi medi mi sembra di capire che siano più bassi, o no? Assolutamente sì. Allora, oggi noi abbiamo avuto la nostra 12ª assemblea nella quale abbiamo presentato una serie di dati. Un dato confortante è intanto che, nonostante tutte le crisi, abbiamo preso un excursus lungo una decina d'anni, vediamo che il turismo continua a crescere. Questo significa che ormai non è più un prodotto voluttuario, è un'esigenza primaria. Forse per la vita stressata che tutti quanti facciamo, abbiamo bisogno di staccare, abbiamo bisogno di recuperare. Il turismo è sicuramente una buona medicina. Dall'altra parte, in questi ultimi anni abbiamo assistito ad una continua compressione dei prezzi per un'offerta molto significativa, per una concorrenza molto forte. Quindi i consumatori possono approfittare di questo e hanno avuto delle occasioni assolutamente irrinunciabili. Mi verrebbe dire, spero irripetibili. Beh, io dico di no, spero che invece le ripetiate. Dopodiché, tutti d'accordo sull'esigenza di staccare, a patto che qualcuno non sia già stato obbligato a staccare. Mi riferisco ai cassi integrati e ai 2 milioni di disoccupati, ma per tutti gli altri sicuramente quanto lei dice corrisponde al vero. ...18-19 minuti, ultima parte di Focus Economia. Allora, Presidente Corbella, come Presidente di chi rappresenta i 60 principali tour operator del Paese, che strategie state mettendo in piedi, visto che alcuni attori del comparto del tour operator sono scomparsi ed altri hanno comunque avuto prezzi più bassi? Allora, la prima strategia è sicuramente quella, ripartendo da quello che dicevamo prima, di mettere il consumatore al centro. Abbiamo detto che il turismo è quasi una terapia, la vacanza è quasi una terapia per superare i momenti di crisi, di stress. Allora la terapia deve essere tagliata su misura per ogni singolo individuo, quindi sempre meno un turismo impostato sulle destinazioni, sempre di più un turismo per rispondere ai bisogni del consumatore per le sue esigenze specifiche. E questo direi che è proprio una strategia di marketing che tutto il comparto deve fare. Come ha detto il Presidente Winter nel suo intervento, l'altra cosa fondamentale è, usando un termine forse un po' abusato, dobbiamo fare sistema. Il nostro è un paese che si è seduto troppo sugli allori. Per anni abbiamo avuto il turismo facile, e per anni abbiamo avuto l'Italia che era la meta agognata, lo è ancora. Da uno studio fatto dai nostri colleghi tedeschi, l'Italia rimane la meta preferita e più agognata, però poi i risultati di visitatori non corrispondono. Questo perché ci muoviamo in ordine sparso, questo perché abbiamo una politica disordinata, o meglio non abbiamo una politica vera del turismo. Dobbiamo lavorare su questo. Gli investimenti, lo abbiamo detto anche oggi, non servono più soldi al turismo, ma serve spendere meglio questi soldi. Non ha senso che singole realtà del nostro paese vadano a promuovere l'Italia all'altro capo del mondo. Abbiamo un Enit che è preposto a questo, deve fare un'azione di coordinamento con tutte le regioni, mettere a frutto queste risorse, dare un messaggio forte di un paese Italia che funziona. Il turista ha bisogno di tante cose, di arrivare con facilità, di avere i visti laddove servono con facilità, di poter avere sicurezza, mobilità interna, e quello che si dice in gergo value for money, deve poter avere un rapporto costi-benefici assolutamente vincente. Sì, anche noi lo vorremmo, oltre che i turisti, anche noi cittadini normali vorremmo avere una mobilità un po' migliore, infrastrutture che funzionassero un po' meglio e tutto un insieme di agevolazioni, figuriamoci poi i turisti. Una domanda, Presidente, siccome c'è un ministro adesso di fatto sul turismo, che è la Brambilla, è arrivata qualche indicazione sull'attività politica, sulle linee guida del suo ministero? Allora, quello che noi diciamo al ministro Brambilla è questo, che intanto se dobbiamo veramente raddrizzare le cose e fare bene per il turismo, dobbiamo muoverci in maniera coordinata insieme. Pubblico e privato devono unire i loro sforzi. Questo non sempre avviene, spesso assistiamo a delle cose un po' troppo sul filo di lana, poco pianificate, poco condivise. Dobbiamo lavorare assolutamente di più in questo senso. E poi purtroppo c'è un altro problema ancora irrisolto. Abbiamo sì un ministro per il turismo, non ancora un ministero per il turismo, ma la delega rimane alle regioni e il coordinamento è ancora un sogno lontano da essere avverato. Sì, e questo è anche il portato di un referendum, a mio avviso, scellerato su questo. Dicevamo delle difficoltà di alcuni tour operator. Si sta aggravando, dico per inciso, la situazione dei lavoratori di Viaggio del Ventaglio, che è un gruppo importante del turismo, è quotato in borsa la società, sono 1.800 addetti. Sembra infatti che Viaggio del Ventaglio andrà verso il concordato preventivo, cioè verrà creata una nuova società e porrà in liquidazione alcune aziende con conseguenti ricadute sull'organico. In bocca al lupo a tutti i dipendenti di Viaggi del Ventaglio. Mi dà a questo punto un'idea concreta di come intendete rispondere a una crisi generale? Quando dite che deve essere il pacchetto turistico ritagliato su misura, che cosa significa poi concretamente? Come dicevo prima, significa che più che mirare a promuovere una destinazione, si promuove una tipologia di viaggio, una risposta ad alcuni bisogni. Dall'altra parte l'attenzione al prezzo continuerà ad essere forte, perché siamo consapevoli che il mercato, salvo una fascia alta, non ha possibilità di spese significative, quindi bisognerà andare incontro a questa esigenza. Dall'altra parte bisogna fare delle economie di scala. Oggi tra tour operating, distribuzione eccetera non sempre c'è stata una sintonia totale. Una cosa importante, proprio ieri ci siamo incontrati con l'associazione della distribuzione, abbiamo aperto un tavolo sistematico che comincia ad operare la settimana prossima per vedere insieme come si può rendere più efficace il sistema. Per non gravare sul consumatore finale bisogna che tutta la filiera sia gestita in maniera ottimale. Questo ancora non è, quindi si può lavorare molto in questo senso. Situazioni come la notizia che lei ha dato, molto triste, di oggi sul Viaggio del Ventaglio, purtroppo non è l'unica, ha seguito altri casi capitati in quest'anno e questi sono frutti di situazioni di crisi generale più ampia e anche forse in passato di qualche crescita che è stata un po' troppo repentina. Però il mercato italiano è ancora frazionato rispetto a quello dei colleghi europei. Abbiamo proprio oggi fatto un confronto che 4 operatori europei fanno 34 miliardi di euro di fatturato contro i nostri 6 italiani, frazionati tra molti. E quindi torniamo alle dimensioni anche delle imprese, in questo caso delle imprese di servizi come sono i tour operator. In bocca al lupo anche a lei e a tutti i suoi associati, quindi al presidente dell'associazione tour operator italiani Roberto Corbella. Grazie, buona vacanza a tutti voi. Andarci, però. È un po' presto ancora per le vacanze, anche se immagino che molti abbiano gli occhi già puntati su Sant'Ambrogio. Invece noi continuiamo a parlare di estero, quindi riallacciando quello che è stato il tema di apertura, l'andamento del commercio mondiale, con questo dato particolarmente pesante per l'Italia, mentre lo ricordo che io non avesse seguito la prima parte. Le prospettive diffuse oggi sono abbastanza buone a livello mondiale, leggermente peggiori a livello europeo e più pesanti sulla capacità di recuperare quote di commercio mondiale per quello che riguarda l'Italia. Continuiamo a parlarne perché è iniziata a Milano oggi la 4ª edizione della conferenza nazionale Italia, America Latina e Caraibi, in programma fino a domani. Oggi era presente anche il Presidente del Consiglio Berlusconi. L'America Latina è uno dei paesi dove si sta in questo momento registrando l'incremento dell'economia più forte assieme all'Asia, più 5% comunque il PIL negli ultimi 5 anni in media, ma sta ripartendo soprattutto il Brasile. Gli investimenti esteri in America Latina hanno fatto un più 50% nel 2006-2007 e anche un 15% di crescita tra il 2007 e il 2008. Noi come Italia siamo al terzo posto in Europa nell'interscambio commerciale con l'America Latina, l'11% del totale è italiano, oltre 10 miliardi di euro, seguiamo Germania e Spagna e anche questo nelle importazioni. Sulle esportazioni verso l'America Latina invece siamo al secondo posto con il 13,5% del totale, oltre 12 miliardi di euro. E Riccardo Martinelli, che è il presidente della Repubblica Panamense, chiaramente di origine italiana, ha ricordato oggi quanto l'immigrazione italiana verso il paese sia oggi rappresentata, nel passato erano i migranti poveri, oggi invece è rappresentata da un'impresa come Impregilo, che è una di quelle che partecipano alla realizzazione del canale di Panama. Hace mucho tiempo emigraron a Panamá más de 2000. Molto tempo fa emigrarono a Panama più di 2000 italiani per la costruzione del canale. Questi italiani incontrarono molte difficoltà e non poterono portare a termine l'opera, che fu completata invece dai nordamericani. Oggi invece è compito di un'impresa italiana la realizzazione del lavoro, della società Impregilo. Sono onorato che ci sia anche un'impresa italiana per la creazione della più grande opera di ingegneria del mondo moderno. Credo che l'Italia sia molto timida nella sua relazione con l'America Latina, e uso la parola timida perché ci sono moltissimi legislatori, sindaci e governatori di discendenza italiana. A Panama il 4% della popolazione discende da italiani. L'Italia ha l'opportunità di essere leader in America Latina prima ancora della Spagna, perché abbiamo molte cose in comune. La cultura, la scuola, l'università hanno fondamenta italiane. Proviene da italianos. E vedremo domani, perché continuerà anche domani questi due giorni di lavori con altri dati. E ripeto, l'America Latina è uno dei paesi delle aree commerciali più interessanti in questo momento. Da Sebastiano Barisoni per ora è veramente tutto, vi lascio alla nostra programmazione, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Focus Economia.